tuo figlio, a te concedo riveder nell'ombra e nel silenzio là, il tuo rossor e l'onta mia nascondi. Fragile petto che colpir de Gio altro ben altro sangue a terger dessi l'offesa il sangue tua e la trarrà il pugnolo al tuo cuore delle lacrime mie vendicator vendicator vendicator. Secrabile l'universo avveleni per me, avveleni per me. Traditor che compensi interquisto dell'amico tuo prima, thank you. ciò.